Ed eccoci di nuovo in voce, buonasera a tutte e tutti. Siamo Geologia Senza Frontiere, la nostra rubrica è Emergenza Zero e siamo a Entropia Massima, come tutti i lunedì. Questa sera torniamo a parlare degli eventi sismici che hanno caratterizzato il centro Italia l'anno scorso, tra gennaio del 2017 e agosto del 2016. Andiamo indietro nel tempo e parleremo con Riccardo di Alter Ego, la fabbrica dei diritti, e gli amici di Emidio di Treviri, che ci parleranno un po' di come hanno lavorato sul cratere e di quali studi porteranno ora a pubblicazione. Ora ci colleghiamo con Riccardo. Ci senti, Riccardo? Sì, buonasera a tutte e a tutti. Ciao Riccardo. E come dicevo adesso all'inizio, con te volevamo fare un po' il lancio della trasmissione. Ci vuoi raccontare un po' cosa stai per portare, diciamo? Devo affrontare quindi questa cosa impegnativa, lancio io la trasmissione. No, hai capito, intanto è un sì, piacere ritornare tra di voi. E, sì, guardate, innanzitutto saluto i ragazzi di Emidio di Treviri che sono lì presenti in radio. E io sì, diciamo, torniamo a parlare del sisma e anche con una notizia, diciamo, che per quanto riguarda il lavoro nostro di legali che come fabbrica dei diritti stiamo facendo su quel territorio, annunciamo comunque sia che abbiamo concluso i lavori per la redazione della seconda edizione del nostro vademecum legale, che lanceremo domenica prossima 18, iniziando proprio da Matrice. E vademecum legale, che è un piccolo studio. Beh, piccolo, Riccardo, ricordiamo sì, che a sto giro sono molte di più le pagine rispetto a questo giro sono molte di più e sono diventate di più perché abbiamo poi ovviamente trovato la collaborazione anche Geologia Senza Frontiere, quindi vostra, Emidio di Treviri, Ingegneria Senza Frontiere, portando avanti un lavoro di più professionalità e conoscenze che hanno arricchito tutti gli studi che abbiamo fatto sul territorio. Uno strumento che è utile a informare e a dare le conoscenze di base alla popolazione su tutte le norme che riguardano il terremoto e il post terremoto. Più contributi che sono di natura più tecnica, che vanno a parlare di prevenzione, di studio del territorio, del sisma, quindi del terremoto. E quindi per noi è un momento veramente importante, perché con questo vademecum ricominceremo una serie di iniziative, di assemblee pubbliche, di sportelli legali gratuiti su tutto il territorio del cratere, sperando che ovviamente ci sia un continuo lavoro invece di integrazione di professionalità con tutte le associazioni che abbiamo intercettato, ecco, che trovano già in Geologia Senza Frontiere, in Emidio di Treviri, che stasera sono in trasmissione, dei compagni di viaggio che sono stati fondamentali e saranno fondamentali ancora di più ogni giorno. Ebbene. Quindi io vi faccio un rapido saluto e ringraziamento comunque per il contributo che avete dato e tutto qui. Grazie Riccardo, ci sarà poi modo di tornare a parlare del vademecum in modo molto più approfondito. È un gran bel lavoro che tu e il tuo gruppo avete portato avanti in questo anno, ora si è arricchito e invito tutte e tutti, quando poi appena sarà disponibile, andare a consultarlo, veramente molto interessante. Va bene, un abbraccio, un ringraziamento e in bocca al lupo per la trasmissione. Grazie, ciao, ciao Riccardo. Ciao. Ed eccoci, allora, come accennavamo, parleremo appunto del terremoto. L'abbiamo già fatto circa un mese fa, forse quasi due mesi fa, e ci siamo occupati più dell'aspetto, diciamo, dell'evento, dei giorni subito dopo, e di come appunto alcune associazioni, tra cui appunto quella di Riccardo e poi la Via del Sale, si sono occupati della prima assistenza, quella che tante volte lo Stato non è riuscito a intraprendere nel modo più corretto. E invece stasera con gli amici di Emidio di Treviri, Giulia e Alberto, parleremo del lavoro che loro hanno portato avanti in un, diciamo, in uno schema un po' più accademico e nello stesso tempo non convenzionale, comunque uno studio molto molto attento, molto particolare, che è partito in sodalizio con le brigate di solidarietà attiva, già appunto molto molto presenti sul territorio, già a partire dall'attività che hanno svolto con il terremoto dell'Aquila, si sono costituite esattamente nel 2009. E quindi insomma partiamo con ricordare che cosa il 23 di febbraio alle Officine Zero Oz ci sarà un bel evento di presentazione di questo lavoro, e oggi appunto Giulia inizia a parlarci un po' di che cosa si tratta. Ciao a tutte e a tutti. Allora il 23 ad Oz, a Officine Zero, in via Umberto Partini, e appunto presenteremo la ricerca di Emilio Di Treveri, che è appunto un gruppo di ricerca che si è costituito subito dopo le scosse di agosto e poi di ottobre dell'anno scorso. E il 23 in particolare presenteremo la ricerca con altri ricercatori che hanno preso parte a questo percorso, e successivamente ci sarà una cena di autofinanziamento a cura appunto delle BSA, con cui è stato importantissimo collaborare, e in quanto è una ricerca che è stata portata avanti in maniera intanto volontaria e militante e collettiva, e questa ricerca è nata a seguito di un'esigenza che si è creata subito dopo le scosse, sia per l'importanza del territorio coinvolto, quindi 140 comuni, 4 regioni, e sia per l'esigenza di studiare immediatamente quello che stava per accadere. E in quell'occasione le BSA hanno lanciato una call di ricerca appunto, dove alla quale hanno risposto moltissimi ricercatori, studenti, accademici e non, e quindi per portare avanti questa ricerca in maniera multidisciplinare e militante e collettiva, con un forte anche radicamento sul territorio attraverso quello che avevano fatto fino ad ora le brigate di solidarietà. Bene, esatto, quindi questa è una cosa che appunto penso sia molto importante sottolineare, cioè questo aspetto di la chiamata delle BSA è poi stata recepita fondamentalmente dal mondo accademico, quello più sensibile, forse più slegato dai meccanismi un po' rigidi delle istituzioni, dell'accademia, e quindi credo che sia questo uno degli aspetti, diciamo, da sottolineare e far capire quanto sia inusuale e positivo che si sia costituito un gruppo del genere, e il lavoro che avete realizzato e andrete a presentare il 23 a Oz è esattamente questo. Sì, anche nel processo che si è portato avanti si può dire che è abbastanza distante da quello che normalmente si vede all'interno dell'Accademia, e appunto l'intenzione era quella di avere una ricerca multidisciplinare, e il lavoro si è tarato anche sulle le forze che si sono, diciamo, confrontate fra di loro. È stata proprio una costruzione collettiva proprio del processo, e quindi ci si è suddivisi in delle, diciamo, sottogruppi di ricerca, chiamiamoli, che appunto avevano l'obiettivo di affrontare lo studio da differenti tagli anche, diciamo, disciplinari. Bene, quindi insomma quello che sta venendo fuori durante la trasmissione, si stiamo capendo come appunto l'aspetto interessante sia che vi siete costituiti in seguito a questa chiamata delle BSA, e vi siete organizzati con dei veri e propri ambiti di lavoro e di insomma sono gli ambiti con cui poi vi siete incastrati sull'aspetto, diciamo, più specifico diciamo che mi sto impapinando. Comunque parliamo con Alberto, che è l'altro nostro ospite di stasera, che ci racconta bene cosa sono e quali sono gli ambiti tematici di cui si sono occupati. Ciao a tutte, innanzitutto grazie per questa opportunità di raccontare il nostro lavoro. Sì, diciamo, ci siamo poi suddivisi in base a seguito di questa call in 6 sottogruppi di ricerca che intendevano interrogare gli strumenti utilizzati per la gestione del post-sisma sotto questi diversi aspetti, e quindi ci siamo divisi in gruppi che affrontavano il tema della salute, della governance, un tema più territoriale, rurale, e il tema invece di cultura materiale e di psicologia di comunità. Tutto questo accompagnato anche da un riscontro continuo di immagini di quello che è stato il lavoro del gruppo Visual. Noi nello specifico ci siamo occupati delle ricadute territoriali e abitative degli strumenti utilizzati dalla gestione del post-sisma, e diciamo che il tema fondamentale, che poi era l'ipotesi che ci premeva verificare, era che molto spesso gli strumenti utilizzati a seguito del disastro possono in qualche modo amplificare delle difficoltà e in qualche modo il quadro delle diseguaglianze molto spesso già esistenti. E questo è un aspetto molto importante, quello che appunto probabilmente ci si rende conto come lo Stato e le istituzioni non se ne occupino. Voi appunto avete avuto modo voi siete arrivati sul cratere abbastanza presto, no? Sì, la call è di dicembre, comunque da gennaio ci sono stati una serie di ritardi, perché poi anche la gestione del gruppo di ricerca ha risentito delle continue scosse che ci sono state, anche i problemi di gennaio climatici, per cui così come si è dovuta ricalibrare la ricerca, si è ricalibrata poi in qualche modo anche la gestione dell'emergenza, e anche questo è uno dei temi che abbiamo indagato. Fondamentalmente quello che poi voi avete già in altre occasioni ribadito è la mancanza di una visione organica, di un approccio organico alla questione, e quindi abbiamo riscontrato come strumenti utilizzati a tappeto per tutto il paese molto spesso possono essere riscontrati come non adatti, e soprattutto questo è il caso di questo terremoto, a un territorio che è diverso da un altro. Qui ci troviamo sì con 4 regioni colpite, ma con un territorio in realtà molto simile, che è quello che è di un'area interna in qualche modo, cioè una porzione di territorio già fragile, isolato, isolato, e anche con dei fenomeni di spopolamento già in atto, per cui degli strumenti che è il caso di alcuni degli strumenti che abbiamo organizzato, che abbiamo analizzato, come per esempio il contributo di autonoma sistemazione, o anche appunto delle casette temporanee, strumenti che sono stati per esempio messi in campo in Emilia Romagna e in una situazione urbanizzata di quel tipo diversa. Di urbanizzazione hanno funzionato, in questo caso si sono invece rivelati molto spesso disastrosi e hanno addirittura incentivato molti di quei processi che in qualche modo si sarebbe dovuto o si sarebbe potuto tentare di arginare con degli strumenti. Certo, e come insomma, come avete potuto capire, l'argomento è molto ampio. Adesso poi facciamo una breve pausa musicale e torniamo fra pochi minuti a parlare di questo aspetto molto interessante. Ed eccoci di nuovo in voce. Stavamo parlando appunto di quali sono stati poi gli strumenti di gestione dell'emergenza messi in campo, esattamente un po' quello di cui vi siete occupati fin dall'inizio. Ma Giulia, ci vuoi spiegare un po'? Parliamo di emergenza subito dopo l'evento, ma chiaramente poi il periodo è molto più lungo dopo un sisma. Sì, esatto. Gli strumenti di cui parlava Alberto prima, in realtà sono quelli che erano per la primissima emergenza, quindi okay, per quello che per le fasi subito successive agli eventi sismici. In realtà questa fase di noi la chiamiamo prima emergenza è durata molto più di quanto ci si aspettasse, in quanto doveva essere una fase soltanto propedeutica a invece l'utilizzo di un altro strumento, che è quello delle casette che dovevano essere installate sul territorio, e questo ha portato a delle problematiche. Quindi in questa fase anche per esempio appunto l'utilizzo di degli alberghi sulla costa, le persone che sono andate lì aspettandosi di rimanere lì per poco tempo, in realtà questa fase, la dilatazione di questa fase ha creato delle cristallizzazioni, cioè molte persone sono rimaste lì una volta. Questa è una cosa eclatante, no? Cioè questa cosa che hanno raccontato, ma forse non l'hanno neanche raccontata così tanto, di quante persone sono state spostate e quanto sono rimaste. È una cosa impressionante, cioè popolazioni intere trasportate in aree completamente diverse, persino proprio fisicamente. Diciamo che è un dato difficile da quantificare in qualche modo anche per noi, perché si tratterebbe anche di riuscire a capire quanti poi non hanno neanche fatto richiesta di quella della casetta temporanea delle SAE, perché non c'erano fisicamente. Ed è un po' uno dei temi di cui ci siamo iniziati ad occupare poi in una seconda fase della ricerca, proprio perché dati vistosi ritardi sono diciamo apparse sul cratere molto molto tardi, e anche ad oggi diciamo siamo più o meno a un 50% di casette consegnate, e in qualche modo anche qui in maniera veramente eclatante poi stiamo vedendo i risultati di uno strumento unico pensato diciamo da distendere a pennello sull'intera nazione, che quindi non è calibrato sia per le comunità e per chi andrà poi realmente a vivere in questi posti, ma soprattutto anche per la natura stessa di questi luoghi. E in qualche modo stiamo vedendo diciamo lo stesso paradosso che c'è nel capire cos'è la prima e cos'è la seconda emergenza, c'è molto spesso, e stiamo cercando in qualche modo, abbiamo tentato di raccontarlo anche sul tema di temporaneità, che cos'è uno strumento temporaneo. La storia delle risposte diciamo di gestione all'emergenza italiana ci racconta in realtà una storia molto triste di risposte temporanee che poi si sono trovate ad essere durature e di cui ancora oggi abbiamo grandi lasciti, per cui molto spesso quello che viene chiamato come temporaneo non è, e molto spesso in nome di questa temporaneità vengono fatte delle modifiche sostanziali anche del territorio, che andrebbero ragionate diciamo con la quantomeno discusse e non raccontate. E infatti questo è un aspetto interessante di cui mi parlavate già tempo fa, cioè il fatto di come appunto sembra venire avanti il tentativo, non direi forse proprio di un'urbanizzazione selvaggia, però operazioni un po' grigie, che non si capisce dove vogliano andare a parare, proprio con queste diciamo iniziative temporanee di edificazione. Sì, diciamo, abbiamo visto per esempio uno dei temi che ci sta particolarmente a cuore è quello delle urbanizzazioni, che sono fondamentalmente delle platee di cemento su cui queste casette temporanee poi vanno a appoggiare, che stanno causando delle modificazioni di territorio che sembra quantomeno paradossale immaginare. Il cemento temporaneo. Esatto, che queste siano in qualche modo reversibili. Quello tra l'altro diciamo, a cui facevi riferimento è anche un tema che si può leggere su non solamente sul tema delle casette, ma anche di molte strutture collettive che appunto lette in questa chiave di temporaneità risultano di falsa temporaneità, risultano probabilmente già offrire una nuova immagine di questi territori, perché quello che accennavamo prima purtroppo appunto i temi sono tanti ed è difficile. Tanto tornate. Esatto, torneremo, ci sarà questo evento appunto il 23, poi adesso parleremo anche un po' della pubblicazione che arriverà, però fondamentalmente diciamo questi temi sono strettamente connessi con la natura di questi luoghi, quello che dicevamo prima di aree interne, aree in via di spopolamento, che sono in realtà un tema molto caldo sul dibattito urbanistico nazionale. nazionale contemporaneo, e molto spesso molte anche di queste nuove modificazioni vengono presentate in un'ottica di rilancio territoriale, quasi sempre poi a vocazione esclusivamente turistica, che però non è realmente dibattuto, non si capisce le comunità che abitavano questi luoghi, che in parte stanno tornando ma a volte rischiano di non tornare proprio per quegli stessi strumenti che le avrebbero dovuto aiutare. Non si riesce a capire poi che ruolo avranno in questa futura immagine di territorio, e se soprattutto avranno un ruolo in questa immagine futura. Ma certo, tutti temi molto interessanti, e appunto come stavamo dicendo necessiteranno per forza di un approfondimento, quindi verrete di nuovo cooptati per venire in trasmissione. Ma quello che vi interessa capire in conclusione è questo lavoro che state portando a pubblicazione, dove verrà pubblicato, cosa appunto succede il 23, l'abbiamo detto, dici un po', Giulia. Allora, ovviamente, oltre a, appunto, a invitarvi tutti a venire al 23 per approfondire meglio i vari aspetti che abbiamo affrontato, e quelli che vi abbiamo raccontato sono quelli relativi al gruppo territoriale, e che quindi affrontava le ripercussioni territoriali, ma anche gli altri gruppi hanno fatto un ottimo lavoro sul altri aspetti, e questo lavoro che è stato fatto dai differenti gruppi verrà, diciamo, si sta concretizzando in una pubblicazione che uscirà intorno ad aprile-maggio con Deriva Prodi, con una nuova collana di Deriva Prodi che specifica, diciamo, sulla ricerca, e in questo momento che si chiama Docs. E in questo momento si sta preparando anche un crowdfunding per sostenere, okay, questa pubblicazione, e quindi rimanete, diciamo, connessi con e dove abbiamo... quindi vi possiamo trovare su, sì, su Facebook c'è una pagina appunto Emilio Di Treveri, e poi abbiamo il sito di Emilio Di Treveri, che comunque anche già raccoglie una serie di contributi più divulgativi che sono stati prodotti in questo anno su siti oppure riviste appunto divulgative, quindi anche lì trovate molte informazioni prima della pubblicazione. Ricordiamo appunto il 23 saremo alle 18 a Officine Zero. Officine Zero, che sta in via? Che sta in via Umberto Partini, Casa Albertone, Roma. Io sono poco romano. Un'altra stazione Termini, Tiburtina. Oltre, diciamo, alla presentazione della ricerca, come dicevamo prima, c'è una cena di autofinanziamento organizzata dalle BSA Roma Castelli, e durante, diciamo, l'evento ci saranno delle proiezioni del documentario e una mostra fotografica a cura del gruppo Visual, sempre del gruppo di ricerca Emilio Di Treveri, quindi insomma molto benissimo. Quindi non possiamo e non potrete mancare, ci saremo numerosi, e allora vi ringraziamo per essere stati con noi e ci troveremo sicuramente presto. Grazie a voi. Grazie. E ancora buonasera a tutte e tutti, torniamo in diretta, cambiamo direi argomento, anche se non andiamo molto lontano dalle zone del cratere, perché andiamo in Abruzzo. Siamo in collegamento telefonico con Renato Di Nicola del Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua. Ci eravamo lasciati un mesetto fa, un po' in maniera tranchant, perché avevamo finito il tempo a nostra disposizione, e quindi ci era sembrato utile e interessante riprendere il discorso lì dove l'avevamo lasciato, anche perché ci sono importanti novità. Ricordo solo che con Renato stavamo parlando e aggiornandoci su tutta la vicenda, la mobilitazione che c'è intorno al Gran Sasso a difesa della sua acqua e del suo acquifero, e in particolar modo in riferimento a un esperimento che si doveva tenere all'interno dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Lascio la notizia bomba a Renato, perché che cos'è successo nel frattempo? Beh, è successo fortunatamente una cosa che ci capita spesso, cioè perlomeno quando ci sono delle cose gravi, nel senso che gli studi di fisica nucleare ha dichiarato che l'esperimento non si può fare, no? Ora, ovviamente non ha detto che l'esperimento non si può fare perché avevamo ragione, perché bla bla bla bla, perché era pericoloso, eccetera eccetera eccetera, non ha detto questo, ha detto semplicemente che siccome la compartecipazione russo, francese, italiano eccetera, che aspetta Renato un attimo, perché magari non sono le stesse persone che ci ascoltano oggi rispetto a circa un mese fa, quindi perché è tanto pericoloso, di che esperimento si trattava? Allora, l'esperimento si chiamava SOX, ed era un esperimento che portava in Italia, sotto le falde del sotto il Gran Sasso, dove c'è l'Istituto di Fisica Nucleare, un prodotto nucleare che doveva interagire con 2300 tonnellate di rifiuti tossici che sono ancora presenti lì, per una ricerca sui neutrini. Ora, al di là del fatto che il materiale nucleare è sempre comunque pericoloso, il problema non era soltanto quel materiale nucleare, è il fatto che interagiva con altre sostanze pericolose sempre all'interno dei laboratori, e che ormai sono 4, 5, 6 volte ormai che avvengono piccoli o micro incidenti, perlomeno in questa fase, in questi anni, che portano all'inquinamento delle acque. Quindi figuriamoci se ci fosse stato un terremoto o un qualche motivo di incendio dentro i laboratori, si sarebbero inquinate le acque che danno da bere a 700.000 abruzzesi, con problemi di inquinamento anche non solo dell'acqua potabile ma anche dei fiumi e dei mari abruzzesi e marchigiani. Quindi era veramente, veramente estremamente pericoloso. Loro avevano detto che eravamo antiscientifici, che non era vero niente, che la legge non è vero, che dice che non si può avere questi materiali o lavorare questi materiali a meno di 200 metri dalle fonti idriche, e invece abbiamo dimostrato carta su carta, pezzo su pezzo, mobilitazione su mobilitazione, perché quest'estate, in piena estate, abbiamo fatto una manifestazione sotto l'Istituto di Fisica Nucleare, e a novembre abbiamo fatto una manifestazione a Termo di 4.000 persone, ovviamente forse dovevano uscirne fuori con la faccia pulita, perché non possono ovviamente dire che, e quindi hanno detto che questo materiale che doveva pervenire qui, i russi non lo hanno preparato bene, e quindi questo esperimento non si può fare in questo momento. Da tenere conto che nel frattempo hanno tirato fuori 2 milioni di euro no? Che si volitizzano senza aver prodotto assolutamente niente. Però insomma noi siamo comunque contenti perché cioè comunque segniamo un punto a favore delle lotte che portiamo avanti. Tra l'altro la cosa non è che è finita qui, cioè perché non è che siamo contenti esclusivamente del fatto che non peggiora la situazione. Ricordavo prima che questo materiale nucleare avrebbe interagito con 2300 tonnellate di prodotti chimici pericolosissimi e dannosi, il benzene, l'acquaraggio eccetera, che vengono manipolati e che quindi c'era un alto, un'alta capacità, possibilità di rischio, e quindi noi siamo ancora per far sì che queste sostanze escano dall'Istituto di Fisica Nucleare, perché sono estremamente, continuano a essere estremamente pericolose. E per dimostrarlo e per capire a che livelli siamo, abbiamo prodotto oltre alle lotte anche un'inchiesta molto pesante, molto forte. Abbiamo richiesto gli atti a tutti quanti i vari enti ed è venuto fuori che praticamente i laboratori dei Gran Sasso hanno violato da anni la direttiva Sevesa sulla prevenzione degli incidenti rilevanti, perché l'Istituto di Fisica Nucleare è un impianto a pericolosità, non è che lo diciamo noi, è così. E praticamente in questo caso non è stato mai approvato il rapporto di sicurezza, erano scaduti il piano di emergenza interno per i lavoratori e quello esterno per la popolazione, no? E questo l'abbiamo verificato, diciamo così, da ispezioni varie che sono state fatte, abbiamo saputo con la richiesta degli atti da vari comitati e anche dai vigili del fuoco. Quindi tutto questo è emerso attraverso o a seguito degli approfondimenti che sono stati fatti da voi e da altre realtà su tutta la questione che gira attorno all'esperimento SOX, quindi è qualcosa che va bene al di là anche dell'esperimento in sé, di questa vicenda, ma che tocca l'istituto a 360 gradi. Assolutamente, noi non diciamo che l'istituto di per sé deve sparire dalla circolazione, noi diciamo semplicemente che questi due esperimenti, appunto questi che si fanno con 2300 tonnellate sotto la montagna, visto tutto quello che è successo, visto quello che stiamo provando ogni santo giorno, devono essere portati via, non deve continuare più questo esperimento. Tra l'altro abbiamo anche abbiamo scoperto che praticamente in realtà a livello regionale avevano già cominciato a definire qual era il livello di pericolosità che si poteva avere in questi laboratori. Praticamente il rapporto di sicurezza già dice tutte le cose che diciamo noi. Tra l'altro un piano che dovrebbe essere approvato in tutte le regioni, quindi anche da noi, che doveva decidere se i 200 metri che la legge 94, la legge quella sull'ambiente, stabilisce sia la distanza minima da prodotti tossici, se era una distanza giusta o meno. Bene, noi abbiamo scoperto che la regione, degli enti della regione avevano già preparato una mappa in cui allargavano enormemente questi 200 metri, perché giustamente i 200 metri erano una misura generale che doveva essere valutata poi sul territorio. Quando qualcuno ha cominciato a valutarlo sul territorio, ha cominciato a vedere che erano altro che 200 metri, a migliaia di metri, e questo studio giaceva nei cassetti della regione. Quindi noi adesso stiamo facendo una battaglia perché lo stesso studio che è stato commissionato, che è stato scritto dagli esperti eccetera, venga deciso dal Consiglio regionale, venga approvato dal Consiglio regionale prima che si facciano le elezioni regionali, perché qui il presidente della regione D'Alfonso verrà quasi sicuramente eletto, e quindi si faranno anche le elezioni regionali. Perché è importante questo? Perché nel frattempo ci sono una richiesta, ci sono una serie di richieste di concessioni di sfruttamento delle acque o di impianti che vengono fatti vicino delle fonti idriche fondamentali, e noi abbiamo paura che appunto questi rallentamenti servano per dire: intanto diamo la concessione in clima preelettorale a qualcuno e poi approveremo il piano, e quindi noi vogliamo che invece venga approvato subito. Cioè, capite, e termino qui perché sennò altrimenti si parlerebbe moltissimo, cioè voi capite che sono irresponsabili, non ci sono aggettivi per dirlo, e comunque sono loro stessi che non applicano una legge, non applicano una prevenzione, non applicano niente. Se questi fossero i criteri, io non so che cosa ci sia di legale ancora. Ecco, io vorrei capire cosa c'è di legale e di giusto in quei laboratori. Certo. Quindi noi pensiamo che al di là delle visite che abbiamo avuto anche del Presidente della Repubblica, che non ha assolutamente detto nulla, nessuna parola su tutto quanto questo, ma ha lodato gli scienziati che fanno ricerca, e quindi probabilmente adesso speriamo, visto che gli abbiamo mandato tutti questi materiali, che sia edotto e che finalmente capisca che lì c'è qualche cosa di molto pericoloso, insomma, e che soprattutto tutte queste persone che ci hanno nascosto i dati in continuazione. Voi pensate che per avere alcuni dati noi abbiamo dovuto inviare delle cose alla procura, perché questi enti non ci volevano dare i dati, non ci volevano dare le carte, no? E quindi abbiamo dovuto inviare la notizia alla procura, e poi magari ce l'hanno dati questi materiali 3 ore dopo questo invio alla procura. Cioè, certo. Siamo a questo punto, no? Però, vabbè, diciamo che quindi non tutto il male viene per nuocere, cioè da questa vicenda che per fortuna ha un lieto fine grazie alla mobilitazione che è stata messa in campo, ne può avvenire qualcosa di utile rispetto all'applicazione di una maggior tutela della risorsa acqua in questo caso, ma comunque anche del territorio più in generale, anche perché sappiamo purtroppo che, per quanto l'Abruzzo è conosciuto come una delle regioni più verdi d'Europa, però poi se si va ad analizzare più nel dettaglio è una delle regioni forse più martoriate o tra le più martoriate, no? Tutto lo scandalo di Bussi, che è poco distante direi dal Gran Sasso, con la discarica più grande d'Europa, no? Di rifiuti tossici, che insisteva proprio sulle sorgenti appunto del fiume Pescara, e che quindi anche lì con un approvvigionamento molto elevato di persone da quelle risorgive. Voi pensate che tra le cose che vorrebbero fare, no, c'è un ampliamento di una cava di ulteriori 20 ettari, e questa cava sta vicinissimo metri alle sorgenti del fiume Pescara, alle sorgenti, e non siamo noi a dirlo, tutto il terreno che vorrebbero utilizzare a cava è completamente permeabile, cioè ogni goccia che cade lì va direttamente nelle sorgenti. Io sinceramente sono anche molto parco nelle parole, però cosa significa crimine, se non quello di dare, di consapevolmente arrivare a poter inquinare un sistema idrico importantissimo come quello? Io sinceramente non, meno male che quando proprio l'acqua ci arriva come ci vuole la gola c'è una reazione non da poco, diciamo, in Abruzzo, con quello che dicevi rispetto alle manifestazioni e mobilitazioni che c'è stato sul Gran Sasso, a Teramo, ma insomma, per andare un po' più indietro nel tempo, su tutto il progetto, no? Ombrina, con le decine di migliaia di persone che scesero in piazza, e anche lì fortunatamente con ottimi risultati, no? Tra l'altro volevo avvisarvi, così magari chissà, prossimamente potreste fare anche una trasmissione con le persone più addentro alle cose. Noi abbiamo creato in Abruzzo un coordinamento NOAB del gas, con tutte le persone che sono, le persone, le realtà territoriali eccetera, che dal Molise e dall'Abruzzo sono inserite nel tentativo di portare il gas da altri paesi, farlo passare per l'Italia, distruggere i nostri territori e poi regalare insomma questo petrolio alla Germania e all'Austria, quindi che si collega anche al discorso no TAP. Ecco, il 21 di aprile noi faremo una manifestazione, stiamo preparando una grande manifestazione sul modello Ombrina. Certo non sarà la stessa cosa, perché sul mare e sulla petrolizzazione abbiamo lavorato già da tanti anni, ma sicuramente sarà una grandissima manifestazione che io penso che cambierà anche di qualche cosa della nostra realtà. E quindi insomma ecco un assist che vi do. Ci risentiamo sicuramente allora in previsione anche di questa ulteriore mobilitazione, magari proviamo anche a fare un punto su tutte le vertenze di cui abbiamo parlato anche oggi. Ti ringraziamo perché proprio questa volta abbiamo concluso il tempo, però questa volta perfettamente puntuali, mi sembra anche in maniera esaustiva rispetto a quanto dovevamo dire. Ti ringraziamo ancora Renato per il tuo contributo e a risentirci. Siamo presto. Noi che ci autoringraziamo e che ringraziamo voi che fate queste trasmissioni, che ringraziamo il popolo abruzzese che da cafone, tra virgolette, riesce sempre a dare delle buone pedate a chi comanda. Bravi, bravissimi in gamba. A presto e ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. E niente, siamo in chiusura. Noi ci risentiremo qui da Radio Onda Rossa per Entropia Massima con Emergenza Zero e Acqua Pubblica circa tra un mesetto. Una buona serata a tutte e tutti.